perché sei ancora mia e mi sai dare tante cose che io non ti do. Ti ringrazio perché quando vado via sai aspettare che ritorni da te. Io vorrei trovare in me quello che non sento più e so che tu mi aiuterai. Ti ringrazio perché nel mio cielo grigio resta soltanto il tuo bene per me. Io vorrei trovare in me quello che non sei. Ti ringrazio perché nel mio cielo grigio resta soltanto il tuo bene per me.